Noi abbiamo fatto nostra già da un po' di tempo questa chiamata internazionale di mobilitazione, di sensibilizzazione sulla necessità impellente, fra l'altro, di cambiare i connotati delle campagne vaccinali e della distribuzione del vaccino alle nostre latitudini, nella nostra area di mondo. Abbiamo recepito appunto la giornata, abbiamo contribuito a lanciare un appello nazionale che vede molti firmatari. Comunque diciamo che sta prendendo vita. Ha preso vita un corpo composto di varie soggettività, tanto politiche quanto anche associazioni di categoria, associazioni di lavoratori, anche della sanità stessa, collettivi di medici e per l'appunto formazioni sindacali come la nostra, perché quello che riteniamo fondamentale oggi è appunto un cambio di passo che vada a favore della collettività, vada a favore implicitamente dei lavoratori, visto che uno degli aspetti su cui incide una pandemia come quella che abbiamo conosciuto è proprio quello del lavoro e della vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Quindi appunto promuoveremo questa data come in molte altre città d'Italia, la promuoveremo insieme a una serie di realtà che sono sia quelle che hanno firmato l'appello nazionale ma anche realtà locali, e appunto ci sarà Potere al Popolo, ci sarà l'Assemblea della Salute, ci saranno una serie di soggetti per dire una cosa molto chiara, che oggi c'è necessità, la priorità nazionale è vaccino per tutti, soprattutto per tutti quei lavoratori e lavoratrici che continuano a svolgere dovrebbero poter continuare a svolgere la loro funzione. Noi siamo stati il primo sindacato a dire durante la prima ondata che c'era necessità di un blocco della produzione. Oggi stiamo ritornando su cifre di contagi spaventose, ma quello che è cambiato è che sono state sviluppate ricette di vaccini. Alcune di queste ricette sono proprietà esclusiva di case farmaceutiche e questo rende inevitabilmente disuguale la distribuzione. Noi vogliamo che sia abolito in questo caso, e si può in casi come questo, il principio del brevetto, che sia data la possibilità di produrre vaccino direttamente ai paesi. Ci siamo vergognati invece, e non solo vergognati, siamo su un campo di lotta in questo caso dal momento che il nostro governo e le nostre istituzioni invece suffragano l'idea che siano le case farmaceutiche gli unici proprietari appunto del brevetto e quindi anche gli unici a determinare i prezzi e a trarre profitto dal vaccino, che è una necessità oggi per vivere. E quindi chiaramente, così come non si possono sentire le dichiarazioni ultime di Draghi, che fondamentalmente ripropone un'idea che ricorda quasi Salvini, prima i bianchi, prima gli europei, piuttosto che la distribuzione del vaccino anche in altre aree di mondo. Ecco, questo principio è diametralmente sbagliato, opposto a quello che promuoviamo noi e che assomiglia molto di più al principio che hanno adottato paesi come Cuba, che invece del loro vaccino intendono fare una distribuzione democratica ed equanime. Ecco, noi questo vogliamo che sia riprodotto. Stop al brevetto delle case farmaceutiche e avvio di una campagna di produzione e distribuzione del vaccino capillare. Soprattutto in Emilia-Romagna siamo in ritardo da questo punto di vista. Siamo in ritardo, in molti ambiti del lavoro ancora quasi non si parla di campagna vaccinale e questo sta avendo degli effetti clamorosi. Abbiamo visto cosa è successo negli ultimi giorni nell'ambito della scuola. È uno di quegli ambiti in cui si potrebbe trovare una misura di lavoro in sicurezza, soprattutto per il personale, ma questo poi ne vanno a beneficiare anche tante famiglie che mandano i bambini a scuola. Si può trovare una misura di lavoro in sicurezza in tantissimi ambiti in cui ancora non ci sono le dovute precauzioni per prevenire il contagio. Pensiamo alla logistica, pensiamo ad alcuni ambiti del lavoro operaio di fabbrica in cui si continua, o del lavoro agricolo in cui si continua a lavorare gomito a gomito, senza distanze, con ancora a volte carenza dei dispositivi di protezione. Ecco, tutte queste situazioni vanno sanate e vanno sanate alla radice. Quindi il vaccino non è soltanto una necessità, è una questione di civiltà, dare o meno la possibilità di produzione e di non esclusività del profitto da parte di case farmaceutiche, che altrimenti fanno unicamente i loro interessi e noi ne stiamo subendo le conseguenze. Abbiamo visto come sono drasticamente diminuite le dosi previste prima del vaccino Pfizer e poi anche del vaccino AstraZeneca, e questo ha lasciato molti lavoratori letteralmente in braghe di tela, non potendo prenotare ancora un vaccino per poter continuare a vivere e a lavorare, ma in generale a vivere in sicurezza. Ti chiedo solo di ricordare luogo e ora dell'appuntamento. Saremo davanti all'entrata del Sant'Orsola, che abbiamo scelto un luogo simbolico, diciamo eravamo indecisi, lo posso dire dietro le quinte, se andare a puntare su un luogo di una sede delle istituzioni che, ripetiamo, sono coloro che hanno la possibilità di dare un cambio di rotta e che scelgono di non farlo. Abbiamo deciso invece questa volta di puntare su un luogo estremamente simbolico di quella che è la condizione nuovamente quasi incontrollabile di contagi, come l'ospedale Sant'Orsola, dove ormai leggiamo sulle pagine dei giornali che si annidano focolai uno dietro l'altro, dove di nuovo c'è una grossa invasione di casi Covid, che fra l'altro va anche a cozzare con la possibilità di svolgere le mansioni ospedaliere quotidiane, gli interventi, le visite, i controlli, eccetera. E quindi saremo davanti all'entrata del Sant'Orsola alle 5:30 con tutte le realtà che hanno sottoscritto l'appello e che scenderanno in piazza insieme a noi.